America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I'm your master's of war. You that build the big guns. You that build the death planes. Masters of War, Bob Dylan, 1962-63, siamo all'inizio degli anni 60, all'inizio della protesta, siamo nel momento in cui la guerra in Vietnam sta per diventare sempre più importante, più difficile, più grave. Vi propongo questa canzone oggi perché in America si celebra il Memorial Day Weekend, l'America è chiusa, l'America è in vacanza. Il Memorial Day Weekend vuol dire un fine settimana dedicato alla memoria, un lunedì, perché poi la festa in realtà è proprio oggi, è un lunedì dedicato alla memoria dei caduti, di tutti i caduti in guerra. Vorrei darvi un po' il polso di questa ricorrenza, una ricorrenza molto molto sentita a livello popolare, perché in realtà c'è un grande rispetto dei veterani in questo paese ed è una ricorrenza questa che si celebra in tutta America, nei paesini. I genitori, i nonni, i piccolini, i ragazzini vanno sui margini delle strade cittadine, ma vi parlo di città magari di poche migliaia di abitanti, vari comuni si raccolgono insieme per organizzare queste parate in cui ci sono i veterani, le bande dei veterani, le bande dei battaglioni che suonano vecchie marce di guerra, ci sono antichi camion, ci sono maggiorette, ci sono anche sportivi, insomma si trasforma un po' in una festa popolare, in un collegamento fra quella che è la vita civile del giorno per giorno, ma anche quello che è l'omaggio di gratitudine che si deve appunto ai soldati che hanno garantito questa libertà americana, la possibilità di continuare, di marciare lungo l'American Dream. Ma oggi il Memorial Day è molto particolare perché si celebra il 50° anniversario della guerra in Vietnam. E il presidente Obama si reca al cimitero di Arlington per commemorare i caduti, parteciperà a una serie di eventi per onorare naturalmente tutti i veterani. Però l'attenzione particolare è proprio sul conflitto in Vietnam, un conflitto che ha segnato profondamente questo paese, la storia di una sconfitta militare, la storia di una sconfitta anche dal punto di vista della gestione degli affari di Stato. L'America perse anche sul piano dell'immagine in un momento determinante per la guerra fredda. Alcuni di voi ricorderanno il dramma, ricorderanno il numero straordinario di morti che purtroppo ha consumato quella guerra. And I was down in Washington hiring my staff and I got a phone call saying that my family had been in an accident. And just like you guys know by the tone of the phone call, you just knew, didn't you? I don't know how I knew. But the call said my wife was dead, my daughter was dead, and I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide. Joe Biden, vicepresidente degli Stati Uniti, beh, sappiamo che qualche volta fa delle gaffe. In questo caso non l'ha fatta, anzi direi che ha espresso un pensiero molto toccante, si è rivolto alle famiglie delle vittime, dei soldati caduti in guerra, e qualche giorno fa, parlando in un discorso, ha detto, beh, io so che cosa passate. Immagino che molti di voi in una situazione drammatica come questa, quando vi muore un figlio giovane, un ragazzo, lo perdete per sempre, non torna più indietro, penso che alcuni di voi magari possano anche contemplare il suicidio. Io vi capisco perché, e qui una importantissima rivelazione personale, non l'aveva mai fatta prima, io stesso ho contemplato il suicidio. Ricordiamolo, Joe Biden, giovanissimo, era stato appena eletto al Senato, fu colpito da una tragedia spaventosa. Parlando appunto alle famiglie di militari scomparsi in guerra, ha voluto ricordare questo suo episodio personale, successo il 18 dicembre del 72, subito prima di Natale. Pensate, Biden era stato appena eletto al Congresso, dunque doveva essere un periodo di straordinaria festa, ricevette una telefonata, la moglie e la figlia di un anno erano appena rimaste uccise in un incidente d'auto. Ecco, devo dire, a vederlo Biden mentre parlava con questi familiari era davvero commosso e si sentiva questa atmosfera di commozione. Comunque è nel 71, un anno prima di questo incidente che ha colpito Biden, che il Memorial Day Weekend diventa una festa nazionale e si celebra sempre l'ultimo lunedì di maggio, poi c'è questa coincidenza con l'avvio della stagione estiva. È una guerra che fu drammatica, come vi dicevo, quella del Vietnam, non soltanto sul piano geopolitico, ma morirono 58.000 giovani americani in questa guerra, ci furono 300.000 feriti. Pensate che nelle guerre combinate tra Iran e Afghanistan ne sono morti circa 4.000, 4.005, dunque siamo su livelli straordinariamente superiori. E potete immaginare l'impatto che ha avuto questo sulla vita comune di giovani studenti che vedevano i loro compagni di università partire per una guerra dalla quale molto probabilmente non sarebbero tornati. E proprio in quell'anno, nel 71, c'è una canzone di Loretta Lynn, Dear Uncle Sam si chiama questa canzone. Lynn si rivolge ad Uncle Sam, che è la personificazione del governo americano, lo vedete nei manifesti qualche volta con l'indice puntato che dice I need you for the US Army, e proprio l'Uncle Sam, lo zio Sam, appena chiamato il suo uomo alle armi, e dice: non mi fraintendere, amo il mio paese, ma amo anche il mio uomo, tu dici di averne bisogno, ma non hai bisogno quanto ne ho bisogno io. Dear Uncle Sam, I know you're a busy man, and tonight I write to you. Questo Memorial Day arriva nel momento in cui abbiamo appena chiuso un vertice NATO in cui c'è un percorso di uscita dall'Afghanistan. Speriamo tutti naturalmente che possa essere rispettato. Ma come vi dicevo, il Memorial Day non significa soltanto la ricorrenza, la celebrazione dei veterani, significa l'avvio della stagione estiva, significa barbecue, significa turismo, significa una gita al mare, significa lunghi weekend, proprio in questa atmosfera un po' agrodolce. Da una parte il ricordo, la memoria dei caduti, dall'altra l'avvio di questa stagione estiva, il governo federale ha deciso di passare una legge che istituisce un minuto di silenzio alle 3 del pomeriggio per tutti gli americani, per evitare che si dimentichino completamente di quella che è questa giornata. Beh, le 3 del pomeriggio cade probabilmente a metà o verso la fine di uno dei tradizionali barbecue attorno al paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che siamo al Memorial Day Weekend, in attesa del ritorno dei soldati americani a casa, ascoltiamo la canzone di Freda Payne, scritta per protestare contro la guerra in Vietnam, una canzone allora bandita dalle radio sotto il controllo dell'esercito americano, di Freda Payne, Bring the Boys Home. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.